guardia sul Topolinero, stiamo abbastanza bene, invece non così quello sulla Bovary, che è molto lungo. Quindi vedremo un po' di aggiungere qualche lezione, ma intanto cerchiamo di stringere, come vedete oggi cominciamo in orario, e così si auspica e si spera da parte mia, sono io ritenevole, di cominciare in orario successivamente, ma vi dico anche che cercheremo di cominciare 5 minuti prima, vediamo quello che si riesce a fare, mangiare qualche minuto e vediamo quello che riusciamo a fare. Prima, seconda cosa, ricordatevi adesso dove eravamo arrivati. Stiamo entrando nella situazione drammatica, drammatica dal greco, dall'azione, è notte e vanno a svegliare Charles, il giovane Charles, che sta con la vecchia moglie magra, steputa, vanno a svegliarlo perché c'è un incidente. L'incidente consiste in questa gamba che si è rotta, un ricco fattore della zona, ma neanche tanto della zona, anzi abbastanza lontano, e bisogna andare. Charles non è attrezzato psicologicamente, anche se dovrebbe esserlo, a fare una sia pur piccola operazione, entra in uno stato di panico, ma è evidente che non può rifiutare. Tutto quello che adesso vedremo deve essere, come dire, palpato nella vostra mente, percepito da voi, perché il modo di leggere la letteratura, come dico sempre, queste sono le cose importanti da imparare, è questo: rigirarsi i concetti, le parole, portarsene poi sull'autobus, portarsene sul 20 per andare alla Nanina. Queste sono le cose importanti. La letteratura la si fa nel cervello e la si fa dopo la lettura e prima della lettura. Non è qualcosa di meccanico, di banale, di duro, che avviene a contatto semplicemente della pagina del libro. Notte d'inverno, fredda notte d'inverno, questa è la scena, no? Fredda, gelida notte, non fredda, gelida notte d'inverno in Normandia. Dovete sentire tutto questo. Il giovane Charles viene avvertito che deve andare via. Mandano uno stalliere, perché come sapete c'era proprio allora, ancora nell'Ottocento, un po' i servi e i padroni, quindi che lo stagliere avesse dei problemi non gli importava nulla a nessuno. Lo stagliere che avrebbe dovuto aprire la strada per vedere se ci fossero stati dei problemi, e quindi sarebbe partito prima, e poi 3 ore dopo sarebbe partito Charles. Quindi verso le 4 del mattino avviene la partenza. La scena è preziosa, ma bisogna assaporarla nei dettagli. Qualcuno, sapete, aveva detto: Dio, se esiste, è nei dettagli. Dice così: verso le 4 del mattino, Charles, e questo è il capoverso, l'avete già visto l'altra volta, no? Ecco, ben avviluppato nel mantello, si mise in strada per il Bertone, che sarebbe la fattoria dove doveva andare. Ancora intorpidito dal calore del sonno, si lasciava cullare dal trotto pacifico della bestia. Quando si fermava questa davanti a quei buchi circondati di spine che si scavano al bordo dei solchi, Charles si svegliava di soprassalto e si ricordava subito la gamba rotta e cercava di farsi riandare alla memoria tutte le fratture che conosceva. La pioggia non cadeva più. Il giorno cominciava a venire e sui rami dei meli senza foglie uccelli restavano immobili drizzando le loro piccole piume al vento freddo del mattino. La piatta campagna si stendeva a perdita d'occhio e i boschetti d'alberi intorno alle fattorie facevano, a intervalli radi, le macchie di un violetto nero su quella grande superficie grigia che si perdeva all'orizzonte nel cupo, nel toro cupo del cielo. Allora, vediamo questo passo mirabile. Notte, suggerimento che vi do, che vi ho dato mille volte già, e vi continuo a dare: quando noi leggiamo qualcosa dobbiamo alzare, lo diceva in bellissime pagine Roland Barthes, bisogna alzare lo sguardo dal libro. Dobbiamo abituarci ad alzare lo sguardo dal libro per immedesimarci, quindi dobbiamo immaginarci assolutamente, ecco, brava ragazza, benissimo. Dobbiamo immaginarci assolutamente che cosa è una notte verso le 4, siamo nel cuore della notte, verso le 4, non è le 2, non è le 5, verso le 4 si sta andando verso la fine della notte. Il tutto, come vedrete, ha un significato simbolico, perché si sta per aprire nella vita di Charles, si sta per aprire l'alba. Verso le 4, avviluppato nel suo mantello, si mise in strada. Era sul suo cavallo, naturalmente, nell'Ottocento si viaggiava a cavallo. Ancora intorpidito dal calore del sonno, perché è passato direttamente, si suppone, con scarse abluzioni personali del gelo dell'inverno, si sarà dato qualche buffetto d'acqua sulla faccia, immaginiamo, e poi si sarà messo a cavallo, avviluppato nel mantello, e il cavallo va avanti al trotto e si ferma di tanto in tanto ai buchi circondati di spine, che sono evidentemente quelli che i contadini mettono vicino ai solchi per proteggerli dagli animali. Il cavallo andando si fa questi intoppi, ogni volta che il cavallo si ferma lui pensa a quello che sta per fare, cioè come dovesse andare a fare un esame, è esattamente come dovesse fare un esame, e quando uno fa un esame cerca di ricordarsi: oddio, ma cosa diceva, cos'è che dovevo studiare, cos'era in quella pagina, e lui dice: ma qual è l'operazione, chissà che cosa mi capiterà, insomma è abbastanza inquieto. E adesso c'è un colpo di genio, di scrittura, che naturalmente voi non troverete raccontato da nessuna parte, perché purtroppo per letteratura si ha scarsa notizia, specialmente tra i letterati attuali, voi sapete quello che io penso. Il colpo di genio è abbastanza frequente in Flaubert, è un portare la macchina da presa, la telecamera, sul paesaggio intorno. La pioggia ha smesso. E allora voi non dovete andare avanti. Ecco il punto. Quando ci si trova di fronte a delle pietre preziose non si va avanti. Lo sentite il sonno di Charles, eccetera, la pioggia ha smesso. Dovete sentire l'effetto della pioggia che non cade più. Di notte, in una campagna senza nessuno, piena notte, in Normandia. Intorno al 1830, grosso modo, dovete sapere questo, perché voi potete dire: ma perché il 1830? E perché? Perché, naturalmente sto parlando per scherzoso paradosso, perché c'è un silenzio. È uno scherzoso paradosso, chi è intelligente capisce, c'è un silenzio del 1830 e uno del 1930. Gli uccellini stanno sugli alberi con le loro piume che si sono rizzate al freddo della notte, e il giorno comincia a venire. I rami sono senza foglie, i rami dei meli. Questa è una determinazione abbastanza facile e precisa del fatto che siamo in inverno. Siamo in inverno, siamo in gennaio, esattamente. Gli uccelli rimangono immobili drizzando le loro piume al vento, freddo del mattino. Adesso guardate che cosa abbiamo davanti, una descrizione della campagna. La pianta campagna si stendeva a perdita d'occhio e i mazzetti gompetti da alberi intorno alle fattorie facevano a intervalli lunghi, cioè c'era un mazzetto e poi ce n'era un altro molto lontano, delle macchie di violetto nero sulla superficie grigia che si perdeva, eccetera. Segnate con un cerchiolino di matita queste parole: la plat, poi perte de vue, piatta, perdita d'occhio, poi segnate éloigner e poi se perder. Se voi mettete insieme queste varie parole avete abbastanza precisamente un'idea del senso di ampiezza, di apertura e di solitudine. La campagna è piatta, si stende a perdita d'occhio, gli alberi sono non vicini, i gruppi di alberi, ma sono lontani, le case sono sparse qua e là, le fattorie della campagna, e poi c'è questo cupo del violetto nero degli alberi che sta sulla superficie grigia. Direi un modo di rappresentare in qualche modo, scusate il gioco, il bisticcio preimpressionistico, se vogliamo, no? O impressionistico addirittura, insomma, questi alberi che sono violenti, gli alberi non sono violenti evidentemente, ma vengono percepiti dall'occhio nella notte che sta sciogliendosi verso l'alba come viola. Questo capitoletto è il numero 5, se non vado errato, speriamo. 6, e qui siamo 6, avete ragione perché l'ho cambiato. Bisognerà cercare di cambiare tutti adesso. Comunque voi mi aggiornate. Andiamo oltre. Il capitoletto successivo, fondamentale, è Une jeune femme en robe de mérinos. E qualche capoverso dopo, la pagina dopo. Une jeune femme en robe de mérinos. L'avete vista? Ditelo magari la pagina. Abbiamo dato il titolo. Dunque, innanzitutto diamo il titolo a questo qui. E allora lo installiamo così. Sentite che bello questo titolo. Mi viene in mente di dare. Verso l'alba. Verso l'alba. E quanto al precedente, è quello del braccia madre. Verso l'alba è quello che è arrivato adesso. Quello precedente. Questo qui mi ha dato il titolo adesso, verso l'alba, ma quello precedente l'avevo dato, no? No. Come l'avevo iniziato? No, già mi ridete. Andiamo avanti. Allora siamo arrivati a questo Une jeune femme. Ma prima di arrivare a Une jeune femme, ditemi quello che, lasciatemi dire quello che succede, quello che succede. Succede che si arriva alla meta. Si arriva il Bertoni, il ragazzo, naturalmente i ragazzi vengono ad accoglierlo, gli aprono il cancello, la porta e appare lei. Naturalmente sapete, qui leggere in italiano è il pugno nello stomaco, io faccio del mio meglio, ma leggere in italiano queste cose qui è come fosse. Non bisogna nemmeno leggerle in francese, bisogna leggerle in flaubertiano. No, questo è verso l'alba. Sentite com'è diverso. Leggo solo le righe, eh? Une jeune femme en robe de mérinos bleu garnie de trois volants danse sur le seuil de la maison pour recevoir monsieur Bovary. Però possiamo leggere così, non finiamo. qualcosa. Una giovane donna in vestito di lana merinos blu, guarnita di tre volant, venne sulla soglia della casa per ricevere il signor Bovary, che fece entrare in cucina dove ardeva un gran fuoco. La colazione dei servi bolliva d'intorno in piccole pentole di taglia ineguale. Dei vestiti umidi si asciugavano all'interno del camino la pala, le pinze, la canna del soffietto, tutti di proporzioni colossali, brillavano come acciaio polito, mentre lungo i muri si stendeva un'abbondante batteria di cucina, dove scintillava inegualmente la fiamma chiara del focolare, unita alle prime luci del sole che arrivavano dai vetri. Chi appare è Emma, che si chiama Emma Rouault, figlia di quello che lui chiama papà Rouault, cioè quello che è l'invalido sostanzialmente, il malato. E gli appare vestita di una lana di merinos, lana pregiata. Questa lana pregiata fa pensare che Emma Bovary non sia in povertà, è una padrona, giovane padrona di una ricchissima fattoria, e lo vediamo anche dai servi che ci sono. Ma quel blu, perché blu? Perché blu è un colore tranquillo, è un colore riposante, un colore da casa. Ecco, quando si ama la letteratura ci si diverte anche a gareggiare con lo scrittore e a dire quale altro colore poteva andarci. Beh, non è detto che solo il blu potesse andarci, forse anche il verde, ma certamente io non vedrei bene la mattina in una cucina, quando cominciano i lavori di menagerie della casa, eccetera, una vestita di rosso, no? No, il blu è un colore tranquillo, però a questo punto dobbiamo imparare a sentire la lana blu, e chi fosse bravo, cioè chi amasse la letteratura veramente, riuscirebbe a procurarsi un pezzo di... sapete, dobbiamo collaborare alla costruzione di questo grande testo per andare a vedere com'era l'Armerinos, perché è una cosa è il cashmere, una cosa è l'Ansgur, ma una cosa è l'Armerinos. Quindi se uno va in un negozio di tessuti, dice io vorrei vedere se è possibile avere, no, probabilmente è impossibile, un po' di lana merinos, perché voglio vedere la blu, allora dicono, ma perché, scusi, vuol comprare? No, curiosità personale. E poi fate caso a un fatto, che questa ragazza, perché di una ragazza si tratta, non è indicata come una ragazza, perché per dire ragazza in francese, come sapete, si dice jeune fille, ma qui è una giovane donna, perché è vista attraverso gli occhi di Charles, e a Charles non appare come una ragazza, appare come una signora, una giovane signora, una giovane donna vestita. E questo fatto che appaia come una giovane signora è come dire se aumentasse una sorta di reverente concupiscenza nei confronti della ragazza, no? Una ragazza puoi anche trascurarla, puoi anche... invece una giovane signora la tratti con un rispetto, e poi vedremo desiderio. Una giovane signora con il vestito di lana merino su blu, che questo è fantastico, guarnita di tre volanti in italiano, ma se conoscete cos'è un volante, evidentemente una donna. E cosa sta stanno a significare. Questa è in casa, è mattina presto, però è vestita con un abito con dei volanti. Questo sa significare uno spirito civettuolo, vuole essere bella anche alle 5 del mattino, capite? Vuole essere graziosa, vuole essere femminile, vuole essere femminile, quindi ha questo vestito con i tre volanti ed entra in cucina dove ardeva un grande fuoco. Fuoco. In questo libro vediamo la predominanza dei quattro elementi fondamentali del mondo Empedoclei, di Empedocle, che sono aria, acqua, terra, fuoco. E ogni volta che compare il fuoco in questo libro vuol dire che la vita si accende. L'amore è sempre segnalato dalla presenza del fuoco. Qui fuoco naturalmente non significa ancora menomamente amore, però sappiate che questo è un indice. Qui che cosa indica il fuoco? Indica semplicemente l'intimità. Tutti noi sappiamo che questa è la sensazione che ci produce il fuoco di un camino. Nelle case dei borghesi, dei piccoli borghesi, quelle che si fanno, eccetera, una delle cose a cui aspirano coloro che abbiano appena appena un po' di mezzi per rendere la casa più graziosa è quella di avere il focolare, il camino, magari non ci fanno assolutamente nulla, ma dà un'idea di calore, no? Anche adesso, nel 2012, stare vicino al camino, si può vedere la televisione, ma vicino al fuoco è cosa profondamente comfortable. Una cosa è il termosifone, è una cosa è il camino. Il camino, lo scoppiettio delle fiamme, l'odore, gli strumenti stessi, gli alari, le pinze per cercare di rassettare la legna che brucia, no? Tutti hanno nei loro sogni, piccolo grandi borghesi, insomma, l'idea di poter un giorno comprarsi una casa in campagna, o anche al mare, in montagna, non è poi in cui sia un camino. Qui c'è un camino, che un camminone, c'è un camminone. Ed è questo fuoco grosso che arde proprio il segno che questa è una casa piena di vitalità. Perché? Perché è vero che c'è solo lei come padrona di casa, non ha fratelli né sorelle, eccetera, che il papà è per il momento fuori uso, ma è una casa ricca in cui ci sono i servi, e i servi a quest'ora fanno colazione, queste colazioni collettive ti danno un senso di calore a te lettore che stai leggendo, ed è tanta gente che deve mangiare, tanta insomma, perché ci sono delle pentole diverse vuol dire non una pentola come nelle case dei poveri, no, pentole diverse per chi, perché cosa prenderà? Il latte si suppone evidentemente, e quindi varie pentole significano la possibilità, la ricchezza, il concetto di avere molte pentole, riflettete, lei non ci ha mai pensato in questo della vita, e invece deve pensarci. Avere molte pentole vuol dire avere molte possibilità. Le vostre mamme, poco che possano, comprano magari un po' ad abbondanza, magari suscitando l'ira e il disappunto di vostro padre, nuovi bicchieri, nuovi piatti, nuove perché? Per darsi un'idea di vita, più uno è depresso, meno pentole ha. Questo è il punto. Cioè sostanzialmente il termometro della depressione in una casa è dato dal numero delle pentole. più hai pentole, meno sei depresso. Più sei depresso, più ti riduci a due pentole, tre. Un pentolino alla fine, no? Ci sono quelli alla fine, i super depressi, soli, vedovi, che mangiano, le vedovi che mangiano un piattino addirittura nella direttamente nella padella, no? Non si preparano nemmeno la tavola. Qui si intuisce che le cose sono diversamente. Gente viva che vive, perché questa gente usa panni e questi panni si sono bagnati. Siamo d'inverno, non c'erano lavatrici, eh? Si lavava a mano, come diceva mia zia, con l'olio di gomito, eh? E quindi i vestiti bagnati stanno ad asciugare dove? Lo sentite questo senso? Le più pentole, il camino, il fuoco, o i servi non parlano naturalmente, sono lì pronti per scattare nella loro vita di lavoro. E c'è Emma. C'è Emma, aspettate un po', e ho dimenticato di dirvi una cosa, che quegli strumenti del focolare, che sono le pinze, cioè, tutto era di proporzioni colossali, eh già, perché cosa vuol dire di proporzioni colossali? Un po' come le pentole, tanta vita. Più le pinze sono pinzone, gli alari sono alaroni, capite? Più c'è vita che ferve, non solo, tutto è pulito. Le case povere sono non così curate, qui tutto è abbondante e lucido. E attenzione, c'è luce in questa cucina di fattoria. Questa luce la vedete perché dice così. Sottolineate, anzi mettete un cerchiolino intorno alla parola brillé. La pelle, le pincette e le becche du soufflé, tout de proportion colossale. Tutto quello che è grosso dà senso, no? Senso di se un uomo è magrolino, sentito, dice un uomo anche vabbè sono fermato in tempo, brillé, questo brillé, segnatelo, se andate giù trovate miroité, segnatelo, e se andate giù ancora trovate lueur du soleil. Adesso vediamo queste parole insieme. Brillavano la pelle, le pensette, eccetera, come l'acciaio pulito, levigato, mentre lungo i muri si stendeva un'abbondante batteria di cucina dove scintillava. Sentite come c'è questa luce che si ripete da in inglese si dice to dazzle, una luce che ti acceca, si ripete da un oggetto all'altro, un miroité inégalement la flamme, e poi si parla delle prime luci del giorno. È già perché siamo arrivati alle prime luci del giorno. La notte è alle spalle. La notte alle spalle. E che cos'è la notte? La notte era il matrimonio con la vecchia madre, secca, senza cure, senza amore. Tutti noi sogniamo di essere curati. Lui, il dottore, non ha ancora fatto assolutamente nulla, però l'ambiente in cui viene ricevuto è accogliente. Quando due si mettono insieme, è ancora adesso così, ecco, e normalmente il ragazzo viene invitato a un certo momento a casa della ragazza e viceversa. E i suoceri futuri si studiano ragazza, di accogliere bene il ragazzo, di a qualunque età. Cioè il genero è sempre prezioso perché tu gli affidi la figlia, e quindi di fargli dei pranzi buonissimi, degli arrosti fantastici che magari poi non se ne può più. Io ricordo quante spose ho visto in Piemonte che dovevano mangiarsi dei lessi giganteschi che preparavano le future suocere. Una volta l'abitudine in Italia era quella di andare una domenica dall'uno e una domenica dall'altro, che era un po' naturalmente da spararsi sulle più distanze, però e uno portava le paste, cose terribili, però in realtà qual è l'opposto di quella? È una vita solitaria in cui non sei invitato da nessuno, in cui non hai una donna o un uomo che ti aspetta, in cui, come diceva la Ford, non hai che l'amicizia delle camere da hotel, eh? E invece quando vai e sei accolto, e il dottore non ha ancora visto nulla, voi capite, però questo fuoco, questa luce, questo calore, questa donna giovane per Dio, lui non ha ancora messo a fuoco il fatto che è sposato con una vecchia, e questa è una ragazza. A lui non par vero, ma siccome è un cretino, capisce tutto molto molto lentamente, direi subisce prima di capire le sensazioni che prova, prima di capire le subisce. Andiamo oltre. Il capitoletto, questo capitoletto l'abbiamo intitolato? No. Lei. Lo intitoliamo così. Lei. Adesso c'è il capitoletto, che qui i numeri sono sbagliati. Qual è il prossimo? 8, quindi devo scalare di 8. Comincia poco dopo. Voi vedete subito dopo che c'è la fracture et simple. Andate avanti, giù, e l'inizio lo mettete a Charles en choisi une. Va bene? Ci siamo? Bene. Allora, bisogna, quando c'è una frattura, adesso sì, sono passati come 1000 anni da allora, ma insomma lo sapete che quando uno ha una frattura si mettono le stecche per cercare di tenere ferme le ossa, questo lo sapete anche voi perché siete medici. Allora Charles manda con la sua autorità a prendere delle stecche perché la frattura gli ha detto, come diremmo noi, con espressione un po' triviale ma efficace, gli ha detto culo, perché la frattura è un'espressione che lei la conosce, cosa vuol dire? È francese, perché la frattura è semplicissima, cioè un cretino qualunque potrebbe curare questa frattura. Lui manda prendere delle assicelle per farle delle stecche, e però a questo punto c'è tutto un fervore di attività intorno a lui. Charles ne scelse una. Ah, ricordatevi che qualche volta, per l'anglicizzazione sconvolgente a cui il nostro mondo segnatamente in Italia è abituato, voi avete fatto l'inglese a scuola, eccetera, eccetera, quindi all'esame si trovano degli studenti che dicono Charles. Devono sapere che nel momento in cui lo dicono non devono nemmeno aspettare una mia risposta. Ricordatevi che se sento dire Charles possono, senza che avvenga per di noi alcun discorso, accomodarsi non fuori dalla porta, attenzione, ma lontano nel corridoio, lontano. Ah, è chiaro il punto? Non dietro la porta, molto lontano. Charles va a prendere queste stecche, va a fare queste stecche, le tagliò in pezzettini, le pulì con una scheggia di vetro, e mentre la serva strappava dei lenzuoli per farne delle bende, e Mademoiselle Emma cercava di cucire dei cuscinetti luci. E attenzione qui è fantastico, e siccome ci mise del tempo a trovare l'astuccio per cucire, suo padre si impazientì, ella non rispose nulla, ma mentre cuciva si pungeva le dita che portava poi alla bocca per succhiarle. Charlie fu sorpreso dalla bianchezza delle sue unghie. Erano brillanti, fine e cima, e più pulite degli avori di Dieppe e tagliate a mandorla. La sua mano, tuttavia, non era bella, benché abbastanza pallida forse, e un po' secca alle falangi. Era troppo lunga anche, e senza molli inflessioni di linee sui contorni. Quel che lei aveva di bello erano gli occhi, sebbene fossero bruni, sembravano neri a causa delle ciglia, e il suo sguardo arrivava a voi con franchezza e un'arditezza candida. Mademoiselle Emma sta cercando l'astuccio, ma non lo trova. Il padre, il malato, la scritta, e lei, per dispetto, non potendo manifestare la sua irritazione in presenza del dottore, però, come capiterebbe a ognuno di voi, si punge il dito e si succhia il dito da cui è uscito sangue. Questa sciabolata erotica introduce l'eros del romanzo. Perché, ricordatevi bene quello che vi dico, che Flaubert mira con spietatezza, nonostante i tempi, alla rappresentazione, quando può, dello scemo. Questo sangue che esce è come premonitore del sangue che sarà sparso, ma il gesto è un gesto altamente sessuale, quello di succhiarsi il dito. Quello di succhiarsi il dito perché fa pensare a cose dichiaratamente erotiche, naturalmente, non solo che potrebbero avvenire con un uomo, ma anche con se stessa. Succhiarsi il dito dimostra che cosa? Perché si succhia il dito con ira, mi sono punta, fa pensare a una forte tempra. E questo è Emma, una donna dalla forte tempra. Charles non osa guardarlo. Quando noi vediamo per la prima volta l'oggetto d'amore, non è che lo vediamo in un colpo, ma lo vediamo progressivamente, little by little. Può capitare di, mi ricordo se avevo 19 anni, credo, e mi piacque una ragazza dell'ambiente che frequentavo, mia coetanea, e non avevo fatto assolutamente alcuna attenzione particolare a costei, ma quando si alzò, era ben messa, ma fu il fatto di alzarsi che mi colpì, la snellezza, la velocità, la giovinezza che mostrava nell'alzarsi da una seggiola, e rimasi estremamente colpito. Cioè, uno quando incontra una persona non è che d'amblè ha un quadro della persona completa, e qui lui è come se non osasse guardare questa donna, non osasse, e la guarda quindi per avvicinamenti progressivi, Quindi la prima cosa che guarda, stiamo parlando delle mani che si sono punte, lei che ha fatto così, guarda le mani e in particolare le unghie. Guarda le unghie che sono bianche. Voi sapete che la bianchezza è una caratteristica della bellezza in una tradizione, in una vasta tradizione, quantomeno occidentale, insomma, no? Non so se ho avuto modo di citarvi, che non so, il Cantico dei Cantici, per esempio, ma poi dal Cantico dei Cantici la letteratura latina, Catullo, eccetera, e la donna bella è bianca. Il Cantico dei Cantici inizia così. Mi baciasse coi baci della sua bocca, davvero il suo amore è inebriante più del vino. Nera sono io, ma bella come le tende di Kedar. Cioè l'essere nera, ma bella, cioè l'essere nera non era considerato un fatto di bellezza. Quindi la donna bella deve essere candida, deve essere bianca. E quindi le unghie qui sono bianche come l'avorio, pensa Charles, e Charles, che ha poca fantasia, non pensa, non so, a un quadro, che cosa conosce? Conosce Dieppe, cioè lì, il posto vicino, sarebbe come voi, non so, qui immaginiamo che a Grotta Ferrata ci fosse una un negozio di avorio, dice, quella ragazza è bianca come l'avorio di Grotta Ferrata, lui dice, è bianca come l'avorio di Dieppe, tagliate a mandorla, ben tagliate. Avete ricordate il volano, la lana merinos? Ecco, e allora dovete pensare, ma come sono le unghie tagliate a mandorla? Lei per esempio ha delle unghie in questo momento che sono aggressive, perché una persona che, scusi se mi posso permettere, una persona che giri con delle unghie blu così, insomma gli dà un senso, invece delle unghiette bianche, modeste, non danno nulla di particolare, allora non si danno probabilmente delle unghie blu, insomma. Ma queste unghie tagliate a mandorla, lei ha le unghie tagliate a mandorla, anche qui, ragazze, qui sembra, questa è un colore rosa carnicino, ma le unghie tagliate a mandorla denotano che questa donna bada al proprio corpo. Vedete, ci sono delle donne belle, io le ho conosciute tante nella vita, che però non avevano nessuna cura del proprio corpo, capelli, unghie, no? Andavano all'università con i capelli raccolti in un chignon di dietro, ma l'unico motivo, sapete qual era? È che non erano lavati, erano sporchi e quindi bisognava tenerli in qualche modo. Questa invece è una donna che scura. E cosa può pensare di dire da una vecchiaccia magra, brutta, di fronte a una donna del genere? Il lusso incanta, però, colpo di genio flaubertiano, la mano non è bella. Perché colpo di genio? Perché quando noi amiamo qualcuno, noi notiamo i difetti della persona, e i difetti della persona non è che la persona che amiamo sia perfetta, no, ma questi difetti divengono poi struggentemente fonte d'amore. Il naso un po' lungo, io mi ricordo perfettamente che nella mia densa vita, c'era una donna che amavo moltissimo, aveva un naso che mi sembrava un po' lungo, e allora siccome lei mi amava molto, mi aveva promesso, insomma una figlia, mi aveva promesso che un giorno, con di quante macchie nere lo sparso il proprio passato, di farsi una piccola ritocco, un'operazione al naso, così, eccetera. Poi il tempo passato, i soldi non c'erano. Ma soprattutto mi sono reso conto che quel naso lì, Madonna, ma era un naso meraviglioso. E fu quando lei tornò sull'argomento del naso, dice, mi pare il più bel naso del mondo, è un naso aristocratico, i duchi di Francia avevano questo naso qui, insomma ero innamoratissimo di quel naso. Quindi sono i difetti poi che ci vogliono. E lei aveva questa mano, ma guardate la finezza, che mano è? Una mano dura. Anche la mano dura mostra, dice così, no, la mano è magra, la mano non era bella, non abbastanza bianca, ecco, forse un po' secca alle falangi. Ma che vuol dire una mano di donna un po' magra? Non vuol dire forse che la donna rifugge in questo particolare del suo corpo da mollezze, da facilitazioni che possono far pensare al fatto che una donna semplice, no? Questa è una donna dura, è una donna che ti darà filo da torcere. Mi seguite bene, ragazzi? Le sue mani non sono mani di vendetta, sono mani di una donna che ti farà soffrire, che ti farà soffrire. E quello che aveva peraltro di bello erano gli occhi. Gli occhi sono stati dedicati degli studi agli occhi di Emma Bovary, perché dice che gli occhi erano bruni, ma le ciglia le rendevano in certi momenti neri. Vi dico che in un altro punto del romanzo Flaubert trova un altro colore per gli occhi della Bovary. Questi occhi sono azzurri. Ora, effettivamente, se dal bruno al nero è possibile passare in qualche modo, diventa difficile passare dal bruno all'azzurro. Eppure in questo che apparentemente potrebbe sembrare una trascuratezza dello scrittore, una trascuratezza non è, si vuol dire che gli occhi vengono percepiti in una loro luce a secondo della vita, del momento, dell'umore della donna, e quindi cambiano decisamente colori. Gli occhi di Madame Bovary erano castani, neri e profondi e azzurri. E ultimo, come guardavano? Guardavano con arditezza. Le puttane guardano in modo ardito. Io non lo so quale sia la vostra frequentazione quotidiana delle puttane, ma avete visto a volte alla televisione qualche sindacalessa, no, ci sono state tante proteste, eccetera, vedete anche delle belle donne che hanno qualcosa però nello sguardo le più fine, naturalmente, non parlo mica di patraccacce di strada, così, insomma, che hanno qualcosa di energico, sono combattenti nel mondo delle difficoltà, di pappa, di rendete conto? Devono darsi da fare, devono proporsi, vendersi, hanno degli sguardi arditi. Naturalmente Madame Bovary non è questo. Ma pensate che personalità c'è in potenza. E se adesso noi torniamo un secondo indietro e vediamo da dove siamo partiti. Siamo partiti da tutte queste luci della cucina, no? Per arrivare al sangue, al dito che viene succhiato, e adesso queste mani magre che denotano l'energia, la volontà, possiamo capire che cosa sarà la Bovary. Fermiamoci.